Runtime Radio presenta Ich bin ein Violino. De Lenda Cartago. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Un programma di storia e cultura a cura di Roberto Tomaiuolo. Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Prodotto da Simone Pizzi. Nel 1935 Ed Marrow iniziò la sua carriera alla CBS. Durante la guerra la sua voce ha portato nelle nostre case i bombardamenti tedeschi su Londra con il programma radiofonico This is Love. Ha iniziato con tutti noi, e molti sono presenti stasera, ai primi vagiti della televisione con il programma d'attualità See It Now, in cui affrontava temi scottanti: segregazione, sfruttamento dei lavoratori migranti, apartheid, Edgar J. Hoover, oltre naturalmente alla sua storica lotta contro il senatore McCarthy. Signore e signori, Edward R. Murrow. L'udienza di Reed Harris mostra una delle tecniche del senatore. Due volte ha detto: il sindacato dei diritti civili americani è stato accusato di essere sovversivo. Il procuratore generale non ha in lista e non ha mai avuto il sindacato come sovversivo. Lo stesso vale per l'FBI e per qualsiasi altra agenzia governativa. Inoltre, il sindacato per i diritti civili americani ha nei suoi archivi lettere di encomio del presidente Truman, del presidente Eisenhower e del generale MacArthur. Il senatore poco fa ha citato Shakespeare. Di quale cibo si nutre questo nostro Cesare? Se avesse letto le tre righe precedenti del Giulio Cesare, avrebbe trovato questa battuta che è quanto mai appropriata. La colpa, caro Bruto, non è nelle nostre stelle, ma in noi stessi. Chiunque conosca la storia di questo paese non può negare l'utilità delle commissioni congressuali. È necessario investigare prima di legiferare, ma il confine tra l'investigare e il perseguitare è molto labile, e il senatore del Wisconsin l'ha oltrepassato in numerose occasioni. Non dobbiamo confondere il dissentire con il tradire. Dobbiamo sempre ricordare che un'accusa non è una prova e che la colpevolezza dipende da prove concrete e dall'esito di un regolare processo. Non cammineremo nel timore l'uno dell'altro. Non sprofonderemo in un'epoca di irragionevolezza se ci affideremo alla nostra storia e alla nostra dottrina e terremo a mente che non discendiamo da uomini timorosi, da uomini che avevano paura di scrivere, di riunirsi, di parlare e di difendere con passione cause che erano impopolari. Non è il momento di restare in silenzio per chi è contrario ai metodi del senatore McCarthy e neanche per chi li approva. Possiamo negare la nostra eredità e la nostra storia, ma non possiamo sfuggire alle conseguenze di questo nostro atto. Ci proclamiamo, e in effetti lo siamo, difensori della libertà, ovunque essa continui a esistere nel mondo. Ma non possiamo difenderla altrove, se a casa nostra la calpestiamo. Le azioni del senatore del Wisconsin hanno causato preoccupazione e sgomento nei nostri alleati all'estero e sono state invece di grande conforto per i nostri nemici. E di chi è la colpa? Non soltanto sua. Non è stato lui a creare questo clima di paura, lui l'ha solo sfruttato, con un discreto successo aggiungerei. Cassio aveva ragione. La colpa, caro Bruto, non è nelle nostre stelle, ma in noi stessi. Buonanotte e buona fortuna. Abbiamo ascoltato, nella conversione cinematografica, le parole di Edward Murrow, un famoso giornalista americano della CBS, che si scaglia contro il senatore Joseph McCarthy, la sua famosa caccia alle streghe dei comunisti negli Stati Uniti. La puntata di oggi, che come spesso fa questo programma trae le mosse da uno scontro fra alcuni protagonisti della storia, tratta di alcune tematiche assai importanti, come il giornalismo, la giustizia, i diritti civili, ma soprattutto la libertà. Voglio sottolineare che molti principi che possono a volte apparire scontati, tali non sono, ed al contrario, sono stati e rimangono sotto costante attacco. Ricordare la nostra storia può aiutarci ad individuare meglio le minacce ed a sconfiggerle. Vorrei fare una premessa. Spesso oggi sentirete parlare di comunismo. Bisogna comprendere che in America, e negli anni 50 in particolare, questa parola va intesa non tanto come potremmo fare noi in Europa, cioè come un riferimento ideologico ad una dottrina politica e sociale, ma come sinonimo di traditore e sovversivo. Ma veniamo al racconto. Siamo negli Stati Uniti del primo dopoguerra, nei primi anni 50, ed in pieno Red Scare, cioè la paura dei movimenti socialisti ed anarchici, che già c'era stata dopo la prima guerra mondiale, ma che ora ritornava in una nuova forma più insidiosa di timore di influenza comunista dell'Unione Sovietica negli Stati Uniti. In questo contesto, il presidente Truman, sotto pressione dell'ala destra del Partito Repubblicano, firmò un ordine esecutivo, noto come Ordine di Lealtà, che ordinava all'FBI di scovare i comunisti nascosti nei servizi pubblici e licenziarli in base ad un semplice ragionevole dubbio. Oltre 3 milioni di americani vennero indagati, 300 vennero licenziati e fu creata una sorta di lista di proscrizione da parte del procuratore generale che riguardava organizzazioni considerate sovversive. In questo periodo avvenne anche il famoso caso Rosenberg, in cui i coniugi Julius ed Ethel Rosenberg furono accusati di aver ceduto ai sovietici segreti nucleari e saranno processati e giustiziati, cosa che, almeno per Julius, pare confermata da testimonianze successive di spie sovietiche. In questa atmosfera, i media giocarono un ruolo ansiogeno assai importante, tramutando queste tematiche in uno spettacolo mediatico, e si sviluppò una vera paranoia nazionale su chi potesse essere un agente segreto sovietico. Il Partito Repubblicano, particolarmente nell'ala più a destra, realizzò che poteva attaccare i democratici a fini elettorali su questi temi, definendoli troppo morbidi sul comunismo. Su questa falsariga, il senatore del Wisconsin, Joseph McCarthy, fu l'emblema di quella che diverrà una vera e propria caccia alle streghe e si caratterizzerà per un modus operandi che prenderà il suo nome, cioè il maccartismo, dove si intende, ormai con una connotazione negativa, il formulare delle accuse arbitrarie e personali basate su dei preconcetti. Eleanor Roosevelt ebbe a dire di questo atteggiamento che è una vera e propria ondata di fascismo, la più violenta e dannosa che questo paese abbia mai avuto. Ma torniamo al senatore McCarthy. Nel febbraio del 1950, ad una riunione del Club delle Donne Repubblicane, brandì un pezzo di carta ed affermò di avere in mano la lista di 205 persone che lavoravano nel Dipartimento di Stato e che erano note per essere dei membri del Partito Comunista. Come detto, l'FBI di J. Edgar Hoover ricevette massicci finanziamenti per scovare i comunisti nascosti nelle agenzie governative. Ma in realtà la loro indagine più pubblicizzata non fu affatto focalizzata sui dipendenti del governo, ma su Hollywood. Molti famosi dirigenti cinematografici, attori e registi furono indagati per scoprire chi aveva delle segrete simpatie comuniste. Charlie Chaplin fu una delle persone accusate di attività anti-americane e l'FBI si attivò per fare in modo che venisse cancellato il suo visto di rientro quando, nel 1952, egli lasciò gli Stati Uniti per un soggiorno in Europa. Ed in effetti la sua carriera cinematografica negli Stati Uniti finì, nonostante egli non sarà mai dichiarato colpevole di alcun reato. Walt Disney testimoniò il 24 ottobre 1947 davanti alla Commissione per le attività anti-americane. Egli nell'interrogatorio parlò dello sciopero avvenuto durante la lavorazione del film Dumbo, ma a sua volta fu egli stesso sospettato di essere segretamente comunista. Edward Dmytryk ed Elia Kazan furono obbligati a denunciare i propri colleghi. Furono interrogati anche Robert Taylor e Gary Cooper. Anche Arthur Miller finì sotto inchiesta e come conseguenza Marilyn Monroe, moglie dello scrittore, chiese aiuto a John Fitzgerald Kennedy. Lo sceneggiatore Dalton Trumbo fu condannato per essere affiliato al Partito Comunista e costretto a trasferirsi in Messico, dove continuò il suo lavoro sotto falso nome. Furono messi sotto sorveglianza persino alcuni scienziati, come Albert Einstein e Linus Pauling. A quest'ultimo fu ritirato il passaporto nel 1952 e gli fu restituito solo dopo qualche anno, quando vinse il premio Nobel per la chimica. Alla fine, molte persone di sinistra finirono sulla lista nera, impedendo loro di fare o recitare film per anni o anche mai più. Un corollario di queste indagini segrete fu quello che ora viene chiamato il cosiddetto Lavender Scare, cioè la scoperta di alcuni comportamenti nascosti di dipendenti del governo che erano omosessuali. Questo scatenò una caccia nella caccia, che causerà centinaia di licenziamenti e l'esposizione al pubblico del comportamento privato di migliaia di persone. Per taluni questo, meno noto aspetto del maccartismo, fu persino più grave e pervasivo di quello più noto, ma di sicuro essi si intrecciano nei discorsi di McCarthy, sempre per motivi essenzialmente propagandistici. Il senatore del Wisconsin fu nominato a presiedere un sottocomitato investigativo del Senato sulle operazioni governative ed utilizzerà i poteri investigativi di questo comitato per condurre interrogatori e lanciare le sue accuse. Ma torniamo all'altro protagonista, Edward Murrow. Murrow era diventato famoso come corrispondente di guerra dall'Europa, in particolare per le sue trasmissioni da Londra. Era noto per essere diretto ed imparziale. Tornato negli Stati Uniti, egli divenne capo della redazione giornalistica della CBS, dove realizzò diverse trasmissioni, prima alla radio, poi come editorialista nel notiziario televisivo, ed infine nel programma TV See It Now. E fu proprio in questo programma che egli condusse l'attacco poi passato alla storia contro il senatore McCarthy, nella trasmissione del 9 marzo 1954, che abbiamo in parte ascoltato. Nella trasmissione, Murrow trasmetterà dichiarazioni del senatore, dimostrandone la contraddittorietà e la falsità. Egli dovette pagarsi da solo la pubblicità del programma, perché la CBS si rifiutò di farlo, sebbene non ostacolò la messa in onda. La trasmissione fu accolta con favore dal pubblico e la CBS ricevette molte telefonate e lettere, in gran maggioranza di approvazione. Ma l'importanza fu che finalmente molte voci cominciarono ad alzarsi contro il senatore McCarthy e i suoi metodi di indagine, le sue diffamazioni di normali cittadini. Fino a quel momento, per il senatore, chiunque non fosse stato d'accordo con lui o con i suoi metodi avrebbe dovuto necessariamente essere un comunista o un fiancheggiatore. Murrow offrì a McCarthy la possibilità di replicare, cosa che egli fece 3 settimane dopo. La replica del senatore fu mandata in onda senza commenti e conteneva essenzialmente, con il classico stile di McCarthy, il tentativo di screditare l'avversario, senza alcuna discussione in merito ai rilievi fattigli. McCarthy accusò, in breve, anche Murrow di essere un comunista, ed in particolare dirà: ecco a voi il senatore Joseph R. McCarthy, senatore dello Stato del Wisconsin. Buonasera. Il signor Edward Murrow, il direttore dei programmi educativi della Columbia Broadcasting System, nel suo programma ha attaccato l'operato della Commissione Investigativa del Senato degli Stati Uniti e la mia persona in qualità di presidente. Negli ultimi 4 anni il signor Murrow ha attaccato ripetutamente me e chiunque combatte il comunismo. Naturalmente né Joe McCarthy né Edward R. Murrow hanno questa grande importanza come semplici individui. Noi siamo importanti solo in relazione alla grande lotta per preservare le libertà americane. Normalmente non sottrarrei del tempo prezioso al mio lavoro per rispondere a Murrow. Comunque, in questo caso mi sento tenuto a farlo, dal momento che Murrow è il simbolo, il leader e il più furbo del gruppo di sciacalli che si trova sempre attaccato alla gola di chiunque cerchi di smascherare i comunisti e i traditori della nazione. E mi sento anche in dovere di dirvi che il signor Edward R. Murrow 20 anni fa era coinvolto nella propaganda della causa comunista. Murrow replicherà la settimana dopo, smentendo di essere un simpatizzante comunista, ma le dichiarazioni aggressive e non provate di McCarthy contribuirono ad alienargli le simpatie del pubblico. Nel 1953 McCarthy rivolse il suo sguardo verso i comunisti segreti nell'esercito, utilizzando il sottocomitato che presiedeva. Quello che non aveva calcolato, però, e che durante le udienze l'esercito accusò violentemente McCarthy ed il suo avvocato Mike Cohen di non aver condotto la loro indagine in modo corretto. Le udienze, che furono trasmesse in televisione, fecero apparire McCarthy come un bullo disonesto. La sua popolarità calò nei sondaggi ed il Partito Repubblicano, temendo che fosse diventato un peso, cominciò a prendere le distanze da lui nel suo lavoro. Alla fine il Senato votò per censurarlo nel 1954. McCarthy, a quel punto, svanirà nell'ombra e morirà a 48enne per cause legate all'alcolismo che lo aveva accompagnato durante gli ultimi anni della sua vita. Credo dovremmo riflettere su questi avvenimenti. Ci sono spunti per ragionare di giustizia e di come sia essenziale che non possano esserci condanne senza un equo processo, senza delle prove e senza una difesa effettiva. Dovremmo riflettere di come, troppo spesso, uomini senza scrupoli, per puri motivi di propaganda politica, facciano uso di poteri legittimi delle istituzioni, piegati a tali fini, spesso a danno di avversari politici o di semplici cittadini. Dovremmo pure comprendere come non è mai accettabile il metodo di fare politica con accuse non provate, allusioni, diffamazioni, contando sul fatto che la giuria, cioè il pubblico che ascolta, non è sempre in grado di rendersi conto di queste sottigliezze retoriche perverse e si limita a percepire il messaggio. Poco conta se poi il malcapitato dimostrerà la sua innocenza. Infine, dovremmo imparare da Edward Murrow la rettitudine, il coraggio di dire le cose come stanno ed anche pretendere che i media si comportino in modo corretto, in una funzione che non può essere solo legata agli ascolti. E peraltro non è nemmeno detto che la strategia sia vincente. Come avremo modo di riprendere in una prossima puntata che faremo sull'argomento Pentagon Papers, nelle democrazie liberali la stampa è uno strumento essenziale dei cittadini per controllare l'operato dei governanti, anche se a volte ciò va ricordato e difeso. E permettetemi di concludere come farebbe lo stesso Edward Murrow per tutti noi. Buonanotte e buona fortuna. Ho iniziato dicendo che la storia la facciamo noi. Se continueremo così, la storia prima o poi si vendicherà e il castigo non impiegherà molto ad arrivare. Una volta tanto elogiamo l'importanza delle idee e dell'informazione. Sogniamo anche che una qualche domenica sera lo spazio occupato normalmente da Ed Sullivan sia occupato da un attento sondaggio sullo stato dell'istruzione in America e che una o due settimane dopo lo spazio occupato normalmente da Steve Allen sia dedicato a uno studio approfondito della politica americana in Medio Oriente. Forse l'immagine dei rispettivi sponsor ne risulterebbe danneggiata? Forse i loro azionisti si infurierebbero e si lamenterebbero? Che cosa potrebbe succedere, oltre al fatto che qualche milione di persone sarebbe più informato su argomenti che possono determinare il futuro di questo paese e di conseguenza anche il futuro di queste aziende? A coloro che dicono la gente non starebbe a guardare, non sarebbe interessata, è troppo compiaciuta, indifferente e isolata, io posso solo rispondere: ci sono, secondo la mia opinione, delle prove inconfutabili contro questa tesi. Ma anche se avessero ragione, che cosa avrebbero da perdere? Perché se avessero ragione e questo strumento non servisse a nulla se non ad intrattenere, divertire e isolare, i suoi effetti positivi si starebbero dissolvendo e presto la nostra battaglia sarebbe perduta. Questo strumento può insegnare, può illuminare, sì, può anche essere fonte di ispirazione, ma può farlo solo ed esclusivamente se l'essere umano deciderà di utilizzarlo per questi scopi. Altrimenti non è che un ammasso di fili elettrici e valvole in una scatola. Buonanotte e buona fortuna. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia, la mia barba è bionda, la mucca non dà latte, Giacomone bacia Maometto, le scarpe mi stanno strette, il pappagallo è rosso, l'aquila vola. Parla Londra, abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Runtime Radio ha presentato Delenda Cartago, un programma di storia e cultura a cura di Roberto Tomaiuolo, prodotto da Simone Pizzi.